mezze stagioni di Roberta Giordano. Dove sarete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, magari già in corsa verso le vostre mete turistiche per questo ponte di 2 giugno, magari già collocati al sole, al mare, in montagna, anche se mi sembra che fosse un po' perturbato oggi in alcune regioni il tempo. Oppure qualcuno sarà ancora in città, lavora, non si muove proprio per il 2 giugno, sarà a casa. Insomma, ovunque siate, mi piacerebbe che rimaneste con me sino alle 15, perché questo sempre è il momento, quando sentite che non ci sono più le mezze stagioni, non è solo un luogo comune da sfatare o per certi versi anche da confermare, ma è il momento di fare il bilancio dei tanti fatti della settimana, un momento per, come dire, ci sediamo sul divano e chiacchieriamo delle cose, a volte ritornare sui fatti che vanno così velocemente uno dopo l'altro, no, in un tritacarne, a volte soffermarsi sulle cose aiuta anche a capire di più. Quindi se avete in mente la vostra notizia della settimana o volete ritornare a commentare un fatto che è successo in questi giorni, il numero verde sempre aperto e libero per le ascoltatrici e gli ascoltatori è 800 24 00 24, lo ripeto perché ancora non lo conoscesse, 800 24 00 24. E ovviamente, come prima cosa, saluto tra pochi istanti l'ospite che ho scelto questa volta come opinionista della puntata, che è Fabrizio Galimberti. Fabrizio! Buongiorno, buongiorno a tutti. Caro Fabrizio, onoratissima non solo perché è grande economista, uno dei giornalisti economici italiani più autorevoli, editorialista del Sole 24 Ore, ha scritto diversi saggi, ma perché... non vorrei dire per me, per noi, in esclusiva dall'Australia è arrivato in Italia, perché sei al Festival dell'Economia di Trento, quindi insomma c'era un appuntamento importante, ecco, no? E ho preso la palla al balzo, diciamo, Fabrizio. E l'ultimo libro che ha scritto Fabrizio Galimberti ha un titolo, direi, molto eloquente: SOS Economia, la crisi spiegata ai comuni mortali. Credo che già dal titolo, Fabrizio, il tuo libro sembri un servizio di utilità sociale, perché non so quanti, a parte che siamo tutti immersi in questa crisi, ma non so quanti hanno capito da dove ha preso origine. Si è compreso che qualcuno senza scrupoli, la finanza creativa, gonfiare le cose, i mutui troppo facili concessi negli Stati Uniti, ma se tu dovessi dire, quindi spiegando anche brevemente il contenuto del tuo libro, Fabrizio, da dove è partito tutto ciò? Beh, diciamo che vorrei ricordare semplicemente, a proposito della difficoltà di capire questa crisi, che quando in ottobre il leggendario ex presidente della Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, andò a testimoniare al Congresso, fu messo un po' sotto il banco degli accusati, lui disse di non aver capito perché era scoppiata questa crisi. Disse: io pensavo che l'interesse, il tornaconto individuale di questi banchieri che ci hanno messo in questo pasticcio e che oggi sono anche loro sul banco degli accusati, avendo perso spesso il posto e spesso la camicia, ecco, pensavo che il loro interesse personale, la salvaguardia del loro interesse personale potesse essere una barriera sufficiente, un baluardo sufficiente per non fare le sciocchezze che hanno fatto. Ebbene, se Greenspan, uno appunto dei più celebrati banchieri centrali del dopoguerra, l'ex presidente della Fed, non aveva capito questa crisi, che cosa ne possiamo capire noi poveri mortali? E questo mi ha spinto a scrivere questo libro, appunto per cercare una spiegazione, che è un diritto e un dovere di noi cittadini. Però tu, povero mortale, Fabrizio Galimberti, l'hai capita l'origine di questa crisi? Beh, diciamo che dopo averci riflettuto su, ecco, io non voglio dire di essere stato uno di coloro che l'avevano preveduta, anche se in un libro precedente, Economia e pazzia, che scrissi nel 2003, io dissi che la lunga galoppata verso il debito dell'economia americana era una planetaria mattana e che oggi, mi autocito se posso, stanno sobbollendo nella pentola dell'economia mondiale gli ingredienti di una crisi di cui la famosa crisi dei dot-com del 2000-2001, la crisi borsistica americana di inizio secolo, e sono stati solo un assaggio. Ecco. Ora questa crisi poi è scoppiata con modalità che mi hanno sorpreso, mentre era facile prevedere che il re dell'azione mi sarebbe arrivato un giorno, perché nessuno può continuare a vivere solo accumulando debiti. Ecco, era difficile prevedere in che modo e in che momento sarebbero sorte queste rese di conto. Senti Fabrizio, però da più parti si dice, no, che una cosa del genere insegna, soprattutto che nei periodi di grande crisi, come fu nella Grande Depressione nel 29, c'è tutto un ribaltamento di valori ed è come se si creasse un nuovo sistema etico civile, no? È come se la grande crisi riuscisse a mettere in discussione tutto e si tornasse ad avere un po' più la misura delle cose. Secondo te è più un luogo comune questo, a proposito di non ci sono più le mezze stagioni, o sarà veramente così? Beh, io direi, sono diciamo ottimista nel breve periodo, ma pessimista nel lungo, nel senso che certamente... Come quando ci si scotta, si sta attenti per qualche minuto, poi dopo ci si dimentica. Ecco. Certamente queste mattane ci hanno fatto riflettere molto, ci hanno detto che gli eccessi del credito facile, che gli entusiasmi, che le euforie, che l'uso di strumenti finanziari non testati e non capiti possono essere dei giocattoli pericolosi che vengono a scoppiare in faccia. Ma la stessa cosa era successa, diciamo, nel fine 600 con la crisi dei tulipani, inizio 700 con la crisi dei mari del sud a Londra e poi la crisi del Mississippi a Parigi, poi c'è stato il 29. È un po' come nel nostro DNA fossero iscritti questi periodici cicli di euforia e di ripulsa, di amore del rischio e rifuggimento dal rischio, e questo fatto che fanno parte un po' della nostra natura di bipedi in parte razionali e in parte irrazionali, tutto questo vuol dire che noi ci sono cicli e ricicli, crisi le abbiamo per adesso introitate, e che domani magari non faremo più gli sbagli che abbiamo fatto, che ci hanno portato a questa crisi, ma ne faremo altri. Ma niente paura, ne faremo altri. Bene, bene, abbiamo sempre una grande fantasia. Allora, Fabrizio Galimberti, vi dicevo, ci siamo collegati con lui che è a Trento al Festival dell'Economia, però un altro collegamento adesso lo facciamo invece con un pianeta, un altro pianeta. Riflessioni da Marte. E da Marte si è visto in questi giorni nel mare Italico un traghetto della linea Napoli-Palermo tra fumo e fiamme, con poveri passeggeri terrorizzati, tutti salvi per fortuna. Ma la cosa bizzarra è che questo traghetto, di nome Florio, per diversi incidenti susseguitisi negli anni si è guadagnato l'appellativo niente affatto lusinghiero di nave maledetta. Ora, un intervento sarà pur necessario, no, per fugare questa sinistra fama del traghetto. Dunque, se è nave maledetta, o si chiama un esorcista, che dite potrebbe essere la soluzione, o si fa della manutenzione seria, o si rottama il traghetto in questione, se ne piglia uno che non richieda l'intervento dei pompieri ogni due per tre. In ogni caso, tra vicende di minorenni e maggiorenni che, quel che peggio, vengono definite illibate, speravamo che dopo le nostre nonne, insomma, il termine assai vintage fosse caduto in disuso con tutto il suo portato maschilista, e la Corea del Nord, tanto per parlare di pace nel mondo che fa i capricci con i fuochi d'artificio nucleari. Insomma, con tutto ciò, il fatto che viviamo in tempi cupi ce lo conferma ulteriormente un diktat in vigore ultimamente negli Stati Uniti. Vietato sorridere sulla foto della patente. Ma come, ci dicono sempre di sorridere per non sembrare dei ricercati, invece lì niente. Faccia seria e imprescrutabile. E perché mai tutto ciò? Perché poi bisogna ricorrere forse al botulino per le rughe d'espressione? No, niente di tutto questo. Semplicemente perché gli uffici della motorizzazione in alcuni stati americani sono stati dotati di un software capace di riconoscere un volto e scoprire se questo è stato usato per realizzare patenti false. Il problema qual è? Che questo sofisticatissimo programma ha un difetto: non riconosce i volti sorridenti. Non vi sembra una specie di... così, paradossale segno dei tempi, bandite le espressioni felici, come a dire che di questi tempi non c'è davvero nulla da ridere. Però Fabrizio Galimberti si è detto abbastanza ottimista, almeno in breve termine, quindi Fabrizio, in Australia si può sorridere sulla foto della patente dove tu vivi? Mi hai fatto una domanda difficile. Io, quando ho preso la patente in Australia, sono stato austero. Non mi hanno detto di sorridere, non mi hanno neanche detto di non sorridere. Però può darsi che adesso notizie di questo software siano arrivate anche in Australia e che quindi anche lì d'ora in poi ci sia questa proibizione. Ma insomma, speriamo di no, almeno lì che ci lasciano sorridere sulle foto. Poi parleremo di una cosa piuttosto interessante che leggevo, di una ricerca del il BIL. Tu sai cos'è il BIL, Fabrizio? Il BIL? Il PIL è il prodotto interno lordo, ah, no? Il PIL, sì, mentre certo. Il BIL con la B è benessere interno lordo, poi vediamo se riusciamo a raggiungere anche questa dimensione, però diamo spazio, cominciamo a dare spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori che stanno chiamando al numero verde 800 24 0024. Questo tra pochi istanti, però come sempre io cerco di fare questo sforzo di sintesi, di raccontarvi alcune delle tantissime notizie, tantissimi fatti che succedono in una settimana in Italia e nel mondo. Prendo un grande respiro e ve li sottopongo lì per lì, ma se avete altre notizie, altre cose, in piena libertà. Allora, per esempio, ovviamente la trattativa Fiat-Opel che è sfumata, perché Opel se l'è aggiudicata il gruppo austro-canadese Magna, e il PD accusa sulla trattativa Opel, purtroppo paghiamo, dice D'Alema oggi, la Fiat paga il prezzo dell'assenza di una guida politica autorevole e credibile del paese, quindi attacca il governo in questo senso. La crisi, ne parlavamo prima, è inevitabile continuare a parlarne, insomma Obama, presidente americano, ha detto che ora mostra ottimismo perché l'economia è fuori dal baratro, però ovviamente non bisogna sedersi sugli allori, essere vigili e fare le riforme necessarie. Così come ha detto anche per quanto riguarda la crisi in Italia il governatore della Banca d'Italia Draghi all'Assemblea annuale della Banca d'Italia, ha detto ci vogliono riforme strutturali, imprese più produttive, banche lungimiranti perché il paese possa uscire dalla crisi. Con Tremonti che però possa ripresa dice no, la politica economica aspetta al governo. Poi sempre per ritornare invece su Obama, sapete che ha nominato la prima ispanica, la prima persona ispanica che è una donna tra l'altro, questo mi fa molto piacere, alla Corte Suprema. Poi ritornando alla crisi italiana, l'Istat che conferma che una famiglia su 5 è in difficoltà e il 6,3% non arriva alla fine del mese. La Corea del Nord, per andare sulla politica estera, che fa la lancia missili nucleari a ripetizione, proprio ogni giorno ce n'è una. Gli attacchi a raffica in Pakistan, i retroscena sanguinosissimi pubblicati dal quotidiano britannico Times rispetto alla guerra in Sri Lanka contro le tigri tamil. Il Financial Times, per rimanere su giornali britannici, che definisce Berlusconi pericoloso per l'Italia, è un cattivo esempio per tutti. E poi le polemiche che continuano sulla vicenda tra Berlusconi e la 18enne di Portici, Noemi, e lui ha smentito in questi giorni ogni rapporto piccante, ha detto se fossi mai andato con una minorenne mi sarei dimesso. Lo scontro verbale poi tra il leader del PD Franceschini e i figli di Berlusconi, lo scontro tra Berlusconi e i giudici, la tragedia purtroppo in Sardegna, sempre morti sul lavoro, la tragedia della Saras con tre operai che sono rimasti uccisi dai fumi, il ministro Brunetta che dice in polizia troppi panzoni, e poi il sindacato dei poliziotti che dice affermazioni gravi e ditti populistici. In Sicilia l'azzeramento della giunta da parte del presidente della regione Lombardo, un giudice del lavoro che reintegra Enrico Mentana a Matrix, e Mediaset che dice ricorreremo in appello, è morto il giornalista e scrittore Nantas Salvalaggio. E poi vi voglio ricordare che domani, oggi è il 30 maggio, domani 31 maggio, è la giornata mondiale contro il fumo. Ricordatevi che l'OMS dice, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è la prima causa di morte evitabile, quindi se si può evitare di farsi del male, evitiamo, poi per altre cose è un po' impossibile, però almeno per questo. E poi vediamo se riesco anche a ritrovare una statistica insomma, sui morti, mi pare che ogni 5 secondi un morto su 10 nel mondo è dovuto al fumo. Tu mica fumi, Fabrizio Galimberti? Ebbene no, mai fumato. Sono contenta, ma te l'ho chiesto proprio senza saperlo, dico vediamo se devo puntare il dito. Mai fumato, anch'io Fabrizio, ma come possiamo convincere? Io qualche fumatore e fumatrice l'ho convinto a smettere, però è veramente un lavoro, come si può dire, io impari. Io ho un problema in casa perché mio figlio 26enne fuma, ma finora non sono riuscito a dissuaderlo. Nonostante un papà così virtuoso, lui lo stesso, quindi sì, anche l'insegnamento dei genitori fino a un certo punto. È classico. Allora, prima di sentire quali sono le indicazioni, perché sta viaggiando, ancora più importanti in questi giorni, visto che c'è tutto questo flusso, 9 milioni di italiani mi pare siano in viaggio, sentiamo Silvana da Pordenone al numero verde 800 24 0024. Silvana. Buongiorno a voi. Buongiorno a te, Silvana. Chiamo perché lunedì volevo andare a questo convegno appunto a Trento. Sì. Faccio presente che io vengo da tutto un altro mondo, perciò sono nel campo della ristorazione, gestisco un micro, una micro taverna tra me e mia figlia, e comunque so che lunedì c'è il professore Marco Maffei, che ho assistito a una sua lezione, ed è bellissimo sentirlo parlare. Dice sempre di fare cose che non ci appartengono per migliorare. Ah, tipo? Io ci provo, per esempio, anche se sarà durissima. Speriamo che abbiano un linguaggio sufficientemente capibile per chi è che lavora tutto il giorno con le mani. E non Silvana, come ma per esempio che cosa si dovrebbe fare di inconsueto? Ma lui dice di assumere i passi, guarda cose che non ti possono interessare per avere degli spunti, per avere delle idee, perché se no rimaniamo sempre, certo, nei propri confini, nel circuito e non abbiamo degli input diversi. E quindi vai per questo al Festival di Trento? Sì, infatti volevo chiedere a voi se c'è qualcosa di interessante che magari mi sfugge. Beh, c'è Fabrizio Galimberti, che però non so se rimane. Fabrizio, tu rimani oltre lì a Trento? Sì, sì, io rimango fino a lunedì, domani presento il mio libro. Però c'è anche qualche cosa di interesse principio dell'ascoltatrice. Si parla di movimenti slow, no? Il vivere lento, che riguarda sia la parte culinaria che altri aspetti del vivere quotidiano. Da slow food o altre cose. Tu in Australia, Fabrizio, riesci a avere altri ritmi che in Italia? Penso di sì, sono tanto grandi anche gli spazi, forse questo induce a essere un po' più... Sì, certo, stando in Australia uno si rende conto di quanto lo spazio fisico, l'avere a disposizione una grande di spazi fisici sia un elemento del benessere, perché vuol dire meno traffico, vuol dire meno inquinamento, vuol dire meno rumore, meno nervosismo, questo, quindi più sì, una dimensione un po' questo riverbera anche sull'atteggiamento della gente che si sente meno stressata e quindi è più gentile, quindi le cose buone diventano ancora più buone. Ci consigli di venire tutti in Australia in massa, Fabrizio? Eh beh, in questo caso l'Australia non sarebbe più un posto mezzo disabitato e quindi... Te lo tieni tutto per te, i canguri, va bene? Ecco, adesso me lo ricordava Gigi Borghi molto gentilmente, Octopus detto anche, perché riesce a tenere con più tentacoli vari telefoni in mano, a ricevere le vostre telefonate, a chiamare anche gli ospiti. Mi ricorda che il fumo uccide una persona, infatti ogni 6 secondi nel mondo, e solo, vediamo qui, manca un pezzo... Vediamo se riesco a vederlo, perché c'ho qui con 25 monitor davanti e dice solo in Italia, però mi manca il numero, vediamo se riesco a vederlo, 80.000 vittime all'anno, pari al 14,2% del totale dei decessi, veramente scandaloso. Smettete di fumare, per favore, donne e uomini che avete questo brutto vizio. Prima di sentire Boris da Firenze, volevo chiedere sempre a Fabrizio Galimberti, che è in collegamento dal Festival di Trento, è uno dei giornalisti economici più autorevoli, editorialista del Sole 24 Ore, ha appena pubblicato SOS Economia, la crisi spiegata ai comuni mortali, come si vede la crisi economica in Australia, che tipo di caratteristiche ha preso? Beh, diciamo che l'Australia è stata fra i paesi meno colpiti della crisi, anche se non potrà evitare l'onta del segno meno di fronte alla variazione dell'attività economica, mentre in America o in Europa si parla di meno 3, meno 4, meno 5% del PIL, in Australia penso che al massimo si andrà al meno 1, perché l'Australia è un paese molto flessibile, è un paese che non ha avuto dei grossi problemi con le banche australiane sono state, come del resto le banche italiane, relativamente sagge, non si sono riempite le tasche di titoli tossici e non hanno fatto dei prestiti senza avere le necessarie risorse. Garanzie. E poi è un paese dove la gente è relativamente ottimista, relativamente giovane, e quindi la voglia di spesa permane anche quando in tutto il resto del mondo sembra dominare la sfiducia. Si tira un po' la cintura, la cinghia. E ovviamente ho fatto questa domanda, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, che Fabrizio Galimberti vive, ha la fortuna di vivere in Australia, per carità, anche vivere in Italia, diciamo, ma con altre caratteristiche, un'altra libertà, ci diceva prima, anche delle dimensioni di vita. Ma sentiamo invece da Firenze, quindi città splendida italiana, 800240024, Boris. Buonasera signora. Buonasera a te, Boris. Buonasera. Mi puoi chiamare Roberta? Ah, Ah, sì, sì, la posso chiamare Roberta, ma ho 78 anni, sì che... Beh, a maggior ragione, no? Potrei essere la nipotina. Bene. Io sono fiorentino, sì che sono anche un po' ghibellino. Io dico la verità, la verità, signora. Sì. A me a volte a leggere i giornali, a sentire la televisione mi sembra di sognare. Mm. Sembra di essere in un altro mondo. Perché, per esempio? Oggi ho sentito, è D'Alema, che secondo me gli sta meglio fuori in barca, in mare, sulla terraferma. Si lamenta perché il governo, non so chi, doveva dare soldi alla Fiat per pigliare questa Opel tedesca. Ma beh, pazienza, ma quando la famiglia Agnelli l'ha preso la Bianchi, l'Alfa Romeo, la Lancia, quando gli hanno levato la Ferrari, il povero Enzo Ferrari, gliel'hanno levata di sotto. Quando Gianni Agnelli è stato fatto senatore a vita e a Enzo Ferrari non gli hanno dato mai nulla. Ma da lei mando d'era. Ma tutti questi fenomeni della sinistra, della destra, si intendano di tutto. Secondo me, non conoscano né la storia d'Italia né la storia dell'industria. Noi non siamo industriali. Non siamo nulla. Capito? Ecco. Boris, quindi vuoi dire c'era poco da fare per la questione Opel non farla sottrarre alla Fiat per essere data alla Magna? Dici... È andata così. Bisognerebbe però tutti rimboccarsi le mani, vede signora, perché le banche le sono forti o deboli e deboli o forti. Se a un artigiano gli deve andare 5 milioni in prestito, vanno a vedere se anche la moglie lascia l'amante o la mamma e la moglie. Invece se gli deve andare dei miliardi a gente come Tanzi, che gli hanno rovinato l'Italia anche all'estero, gliene danno soldi perché vanno vestiti bene o la valigina con la 24 ore, hanno l'orologio che costa tanti soldi ai braccio, li danno ad intendere che Cristo morì di sonno, capito? E a quelli la mattina si alzano, si rimboccano le mani e lavorano, vengono sempre tartassati, la prova a vedere, la guardi le tasse le pagano gli operai e i piccini. Ma i dipendenti, sì. Sì, gli operai, dipendenti e piccini. Mm. Se lei lavano, cioè, ma la guardia di finanza a volte la vanno dei negozi, che c'è marito e moglie soli che vendano i bottoni e il filo forte, che ora c'è quasi più a giro. Ma i chi credano di salvare l'Italia in quella maniera? Grazie Boris, grazie. Ciao, buona giornata. E c'è Umberto da Bologna, adesso sempre il numero verde che ogni tanto vi ricordo se volete intervenire in piena libertà sui fatti della settimana, 800 24 0024. Umberto, a te. Oh, ciao Roberta. Ciao Umberto. Bella voce. Grazie. No, volevo dire questo, intanto volevo dire a Grimberti che l'autocitazione che ha fatto lui del suo libro è pertinentissima. Io l'ho letto 7 anni fa, casualmente anche, è un libro che dovevo edito alla terza, se mi ricordo bene. Sì. E lo lessi, è rimasto fulminato. Un libro di Galimberti intitolato come? Economia e pazzia. Ah, Economia e pazzia, sì. Un libro splendido. Uh-huh. Splendido perché io faccio il bancario, facevo il bancario, ancora adesso lo faccio, faccio il direttore di una filiale. Uh-huh. E mi apri gli occhi sotto una serie di cose, perché poi è un libro talmente bello, perché parte dalla speculazione, dalla prima forma di bolla speculativa che c'è stata nella storia, ed era quella del boom di tulipani del 1600, grosso modo, sì. Che per quella fine non si capiva bene il valore delle cose, i bulbi valevano tot all'infinito, a prescindere dal loro valore reale, e da lì poi parte fino alla bolla speculativa di internet e quant'altro. Fu un libro splendido e nel quale lui alla fine traccia questi segnali di una possibile bolla futura. Quello che mi chiedo io, chiedo a Galimberti, come mai nel caso suo ci fosse stata questa capacità di preveggenza e come mai invece chi diciamo dovrebbe avere un polso, e guardi, non mi limito a dire solo Greenspan, ma io ricordo, e chiedo a Galimberti anche un parere su questo, il fatto che nel luglio dello scorso anno ad esempio, a volte Radio 24 lo fa anche in maniera così un poco come una sorta di per sbeffeggiare, ci fu una conferenza stampa di Trichet in cui parlava delle solide fondamenta dell'economia europea e che per diciamo tutelarsi dai rischi inflazionistici lui alzava i tassi di interesse al 4,25, questo a luglio del 2008. Ecco, io chiedevo a Galimberti come mai lui fosse riuscito a prevedere, per carità, però aveva tracciato dei segnali e quant'altro, e come mai invece tutti questi soloni che dovrebbero ottenere i redditi dell'economia mondiale siano incapaci di prefigurare gli scenari che da lì a poco si concretizzano, insomma, ecco. Bene, ti ringrazio Umberto per la domanda, che ovviamente giro immediatamente a Fabrizio Galimberti. Fabrizio. Beh, per quanto riguarda, intanto devo dire, quella decisione di Trichet di alzare i tassi, quella fu per usare parole che usò il primo ministro Talleyrand qualche secolo fa fu peggio di un crimine, fu un errore, è così che è definita l'era in certe decisioni. Ma per quanto riguarda il fatto che alcuni, anzi voglio dire la maggior parte, non avevano previsto, proprio oggi c'è stato al Festival di Trento un cosiddetto processo agli economisti, e qui c'era un'accusa, c'era una difesa, c'era una giuria fatta di studenti dell'Università di Trento che adesso nel pomeriggio dovrà dare il verdetto. Ma bene, siamo curiosi. Ecco, il professor Perotti ha fatto l'accusa e ha chiesto una condanna a sopra i 5 anni, quindi senza la condizionale. Come minimo. Sì. Il professor Guiso, che ha fatto la difesa, ha chiesto l'assoluzione, anche se con formula non piena. Ma il fatto fondamentale è che questa crisi è nata perché c'erano stati degli sviluppi nel mercato del credito molto tecnici, molto complessi, che solo alcuni capivano. E come successe in passato in altri episodi con balocchi finanziari con cui si era cominciato a giocare, se ne vedevano solo i lati positivi, non si era capito il lato negativo, anche la stessa cosa è successa con questi mutui subprime, con questi prodotti derivati, con questi strumenti di protezione contro il rischio di fallimento delle imprese. Però non diremo, Fabrizio, che solo ingenuità o incompetenza, qualcuno ci ha messo anche della malignità in questo, dell'intenzione, no? Ma guarda, io sono del parere di Keynes, che diceva non bisogna mai sottostimare il potere della negligenza o della stupidità. Ecco, io non credo alle teorie del complotto, che c'è gente che diceva tanto peggio tanto meglio, perché poi no, tanto per guadagnare, non per altro. Che poi ci sono andati di mezzo anche loro, perché hanno perso la faccia, la camicia, il posto, molti banchieri. Io penso semplicemente che sia stata una specie di euforia collettiva, come si è dato altre volte nella storia finanziaria, una sottovalutazione dei rischi, una specie di associazione non a delinquere, ma associazione a mettere la testa sotto la sabbia. Grazie Fabrizio Galimberti. Ed eccoci sempre qui, naturalmente, a confermare o a sconfermare che non ci sono più le mezze stagioni. Roberta Giordano con voi e sempre in collegamento da Trento Fabrizio Galimberti, che è uno dei giornalisti economici più autorevoli. Vi dicevo, editorialista del Sole 24 Ore, ha pubblicato SOS Economia, la crisi spiegata ai comuni mortali, e proprio noi la stava spiegando. Ma rimaniamo ovviamente anche su tutte le altre notizie della settimana, grazie anche ai vostri interventi, al numero verde 800 24 00 24. Allora, prima di dare voce a Marco, che ci aveva anticipato poco fa la sua notizia, appunto parla degli operai morti nell'ennesimo incidente sul lavoro in Sardegna, guardavo dalle agenzie che sapete che c'è stato a Roma il G8 dei ministri della difesa e degli interni. Bene, il governo italiano ha proposto la sospensione del trattato di Schengen, sapete, il trattato per la libera circolazione delle persone, con il ripristino dei controlli alle frontiere dal 18 giugno al 15 luglio, quindi con una specie di moratoria, di sospensione del trattato, così ha proposto il governo italiano, dal 18 giugno al 15 luglio in vista del G8 dell'Aquila. Lo ha detto il ministro dell'interno Maroni nel corso della conferenza stampa a conclusione appunto della riunione di questo G8. E a te Marco. Scusi sì. Roberta. Prego. Si tratta di questo. Sì. Io anni fa, nell'84 per la precisione, sì, invitato da due giovani ingegneri romani, sono andato a vedere un computer a Roma, questo per dare l'antefatto, no? Sì. Che praticamente gestiva la casa. Tra le varie gestioni che faceva questo benedetto computer, che poi credo abbiano commercializzato, c'era un naso elettronico. Allora io mi domando perché le aziende che fanno queste verifiche su queste botti, su queste stive, a bordo di navi anche, non possono usare un naso elettronico che dia come è effettivamente l'aria all'interno. All'interno. Se ci sono fumi, se ci sono sostanze tossiche. Certo. Ricordo anche i costi, che erano piuttosto contenuti. Quindi oggi, come oggi, un naso elettronico di quelli costerebbe una manciata di migliaia di euro. Non sono cose paradossali. E non riesco a capire perché le aziende non si dotino di questi strumenti che sono alla portata di tutti. Ma questa potrebbe essere un'idea, Marco, non me ne intendo più di tanto, però a volte in questi casi si punta un po' il dito contro gli appalti concessi proprio per il rilancio al ribasso, meno costano certe cose più, e quindi non so se anche questo può incidere sul fatto di non orientarsi verso queste scelte. E c'è adesso, ti ringrazio intanto Marco dalla Spezia, c'è Maria Teresa da Milano. Sì, buonasera. Buonasera Maria Teresa. Senta, io volevo il suo parere di donna e anche dell'ospite che c'è in linea. Sì. Sul fatto, diciamo, la cosa abbastanza secondo me scandalosa, che non è tanto il fatto di Noemi, di tutto quello che è successo con il presidente Berlusconi, quanto la cosa che lui abbia detto, che rivendica il diritto di candidare delle donne che siano fisicamente gradevoli. Ecco, questa cosa secondo me è passata un pochino sotto silenzio, cioè dopo anni di femminismo ci sentiamo ancora dire queste cose. E volevo il suo parere come donna e il parere del suo ospite, che è stato all'estero, quindi mi piacerebbe sapere che vive in Australia. In Australia, esatto, come una cosa del genere verrebbe accolta. E insomma, poi mi domando, molti ministri che ci sono adesso, se fossero donne che non sono, diciamo, esattamente degli Adoni, forse non sarebbero neppure state, non avrebbero avuto neanche una chance di andare in Parlamento o di diventare ministri. Ecco, volevo sentire la sua opinione di donna. Ma Maria Teresa, per chi mi segue, mi conosce, sa del mio radicato femminismo, che mi pare imprescindibile ancora in un mondo in genere, ma anche l'Italia dovrebbe essere il paese evoluto in cui c'è un forte maschilismo, quindi ci vuole per forza una forza di contrapposizione e di vigilanza sempre su certi meccanismi. Io non ho nulla contro le donne belle, anzi mi piacciono molto anche le donne belle, però se diventa il criterio di scelta per ruoli di potere, chiaramente no, sento di nuovo svilito il ruolo, l'identità femminile. Se ci fosse una par condicio e ci fossero tanti begli uomini, che veramente basta guardare il Parlamento, adesso non mi piace in genere fare così, dare dei giudizi di merito sull'estetica, però devo dire che la gran parte degli uomini è veramente bruttina, insomma, no? Almeno nel Parlamento italiano. Certi non si potrebbero neanche guardare, però uno guarda quello che sanno fare, non sanno fare, eccetera. E vorrei che lo stesso criterio fosse adottato per le donne, perché ce ne sono tante bravissime, intelligenti, senza bisogno di avere chissà quali caratteristiche fisiche. Poi ci saranno splendide e intelligenti donne anche tra le bellissime, ma non può essere quello il primo criterio di scelta e poi semmai viene il resto. Questo è il mio parere. È interessante effettivamente, Maria Teresa, sapere anche Fabrizio Galimberti, che vive in Australia, che cosa ne pensa, vista da lì. Fabrizio. Beh, io naturalmente sono completamente d'accordo con te per quanto riguarda i principi, ecco, e certamente in Australia o anche in altri paesi non ci sarebbe nessuno che si azzardasse a rivendicare il diritto di cui parlava l'ascoltatrice, come se uno mettesse sul piatto il fatto che mette l'apparenza fisica come specchietto per le allodole per acchiappare voti. Ciò detto, se uno va a vedere la realtà, uno vede, ecco, qui c'è una par condicio, nel senso che, per esempio, mi ricordo di aver letto recentemente che hanno visto che gli uomini alti hanno un reddito medio più elevato degli uomini bassi. Sì, questo ve l'avevo letto anch'io, però. Ecco, e adesso non so invece se altre caratteristiche fisiche come l'obesità, e penso ai panzoni di Brunetta, potrebbero essere svantaggiose dal punto di vista della carriera o della capacità di guadagno, però è un fatto che certe caratteristiche fisiche positive sono nei fatti, se non nel diritto, associate a maggiori successi. Probabilmente siamo più ben disposti, chiaramente, se ti viene incontro una persona tanto bella, forse già sia un po' più, però non può essere, Fabrizio, no, questo il primo criterio, può essere una cosa in più rispetto ad altre cose, però. E a proposito di panzoni, invece, i poliziotti panzoni in Australia come sono? Beh, in Australia purtroppo per gli australiani, come in America, c'è una crescente obesità. E quindi la dieta mediterranea viene guardata con sospetto e si preferiscono belle bistecche con tante patate. E invece credo che Fabrizio Galimberti sia sempre informissima, ma darei la parola a Angela, che chiama da Bolzano, quindi non lontanissimo da Fabrizio Galimberti. Angela, pronto? Che è al Festival dell'Economia pronto di Trento. Eccoci. Io intervengo per un altro argomento, però voglio dire solamente 2 secondi. Sì. Purtroppo nel mondo del lavoro viene chiesta la bella presenza, per cui sì, però ai maschi politici direi proprio di no, se li guardiamo per niente. Insomma, guardi, la Thatcher era una bella donna, la Condoleezza Rice è una bella donna, insomma, Tutte le donne politiche, anche la Merkel è una donna che piace, no, insomma, si porta bene, quella finlandese, di donne belle è una bella donna. Io non ho visto ancora una donna non bella a un potere, non so, a me Condoleezza, devo dire, donna intelligente e magari per altri versi mi piace meno, però esteticamente non trovo tutto questo fascino straordinario. Mi piace Obama, ecco, Obama si può dire che aveva sia un gran bell'uomo, come no, perché non vale il viso, cioè il bello non è del viso, è di tutta la presenza, no? Certo. Quella che viene richiesta. E per i politici italiani neanche i piedi penso possano, no, dirsi belli, ma comunque. Io sono della tua opinione riguardo a quello che hai detto, grazie, ma no, ecco. Si può essere di qualsiasi opinione. Adesso, ti ringrazio. Adesso vengo a quello per cui ho telefonato. Sì. Io sono stata stimolata dalla frase di D'Alema, sì, riguardo al fallimento della Fiat sul mercato tedesco. Allora, la Fiat non era una fabbrica fallita come lo era la Opel, perché la Opel era completamente piatta, diciamo, non c'aveva niente. La Motor, come si chiamava quell'altra? La Motor, quella americana. La General Motors. Sì, ecco, sì. La General Motors, sì. Con una austriaca, con l'altra che... Magna. Sì? Sì, hanno fatto questo, hanno avuto la meglio perché sono stati sostenuti dalla Russia, da Putin, perché qui a Bolzano abbiamo l'informazione molto migliore perché si vede la televisione tedesca. Dunque la scelta è stata perché Putin c'è dietro e la Germania tende molto verso l'est più che verso il sud, non c'entra la Fiat dentro. E il governo D'Alema ha fatto un colpo non tanto bello nel dire, perché vuol dire che non se ne intende. Se il governo italiano avesse dovuto dare una somma alla Fiat perché potesse vincere, si figuri, il governo tedesco avrebbe detto gli deve dare i soldi, allora niente Fiat perché è fallita, ha capito? Lo sbaglio enorme, io non lo so cosa fanno quelli della sinistra, guardi, io ho proprio un grande dispiacere. Ma uno dopo l'altro ne dicono delle belle, va bene, io la saluto col dispiacere. Grazie, grazie. Angela, no, speriamo che questo dispiacere si possa dissolvere in qualche modo, almeno in questi giorni un po' di festa, per chi se li può godere. Ma Fabrizio Galimberti, tu sei d'accordo con questa analisi di Angela? Ma io direi che la scelta, dopo aver fatto una scelta si scatenano sempre, diciamo, delle teorie un po' complottarde, nel senso che un po' machiavelliche, nel senso che la scelta è stata fatta per questa ragione e non per quest'altra. Io direi che in questo caso la scelta è stata una scelta fatta su basi tecniche, su basi di chi metteva più soldi e più capacità e più visione strategica nel piatto. Io non sono d'accordo con D'Alema sul fatto che se il governo avesse supportato la Fiat, insomma, a parte il fatto che sarebbe stato un bacio della morte per questo governo supportare la Fiat, se questo governo avesse supportato la Fiat allora ci sarebbe stato un esito diverso. Io penso che il governo abbia correttamente deciso di tenersi fuori da queste scelte che dovevano essere fatte esclusivamente sul piano industriale, e poi la storia dirà se l'offerta della Magna insieme con l'Austria, con questa azienda austriaca e l'appoggio anche della Russia di Putin sia stata una scelta saggia oppure no. Allora, adesso direi di prenderci uno spazio un po' diverso, come succede qua, non ci sono più le mezze stagioni, perché di stagioni anche parliamo, con il colonnello Giuliacci, che ci dirà, per chi ha voglia e ha possibilità di muoversi in questo ponte del 2 giugno, che tempo ci aspetta. Colonnello, non ci deludere. Ciao Roberta, un saluto a tutti. Chiedo scusa. Diciamo che non sarà proprio non cominciamo così. Un ponte brutto, no? Ma nemmeno decisamente bello, diciamo una via di mezzo. Tanto sarà bello su gran parte del nord Italia, a parte qualche temporalino nel pomeriggio, anche qui potrebbe uscire qua e là vicino alle Alpi o sulle Alpi, ma di brevissima durata. Quindi l'ombrellino ci sta. Ecco, meglio uscire sempre con l'ombrellino, anche col golfino, perché le temperature resteranno fresche su tutta l'Italia almeno per 6-7 giorni, meglio così, no? No, io preferisco il caldo, lo sai che sono sempre antinfermista. Vabbè, allora vedrò di cambiare rotta, la prossima volta ti porterò un po' di caldo. No, per carità, no, la maggioranza certo, preferisce. Certo. Certo, allora vediamo un po' invece dove il tempo sarà così così. Diciamo, beh, domani sulle regioni centrali nel pomeriggio sera non sarà un granché perché ci saranno quella temporali, eccetto, qui lo preciso, se no rischia di essere impallinato, eccetto l'Alta Toscana, lo preciso, ma non per fare uno sconto all'Alta Toscana, ma perché così, ecco, così dicono i modelli. E poi nella sera i temporali invece compariranno anche sulla Campania, la Lucania e la Puglia. Lunedì ancora bello su gran parte del nord, ma invece ricompaiono nel pomeriggio un po' di temporali, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e anche sulla Sardegna anche qui, anche domani. E poi ecco, andando verso martedì già la situazione migliora, qualche temporalino pomeridiano di breve durata sulle regioni appenniniche, niente di più. Quindi come si vede, insomma, io direi, a parte queste temporali pomeridiane nella giornata di domani e sulle regioni centrali di lunedì, nelle zone interne del centro, poi tutto sommato il resto ce la possiamo cavare, ce la possiamo cavare. Quindi non è un ponte disastroso, non bellissimo come avreste voluto, però di più in questo momento non la casa non vi può offrire. Grazie colonnello Giuliaci, comunque sia un solare ponte a te nel 2 giugno. Grazie a te e ai nostri ascoltatori. Grazie. Grazie. Ciao colonnello Giuliaci. E prima di sentire quali sono le indicazioni sempre per chi sta viaggiando, oltre a quelle meteo che abbiamo appena sentito, chiedo a Filippo Oreggi, tra l'altro la parte tecnica c'è Filippo, cioè, già ci sono le informazioni. Allora, mentre intanto lo ringrazio, Italo da Ascoli Piceno. Italo, ci dici soltanto, mi dici qual è la tua notizia della settimana e poi ci ritorniamo dopo la viabilità. Sì, io volevo riparlare del caso del gossip, ma non per il gossip, quanto evidenziare alcuni aspetti del gossip, non importa nulla, solo alcuni aspetti relativamente al comportamento tenuto nei confronti della pubblica opinione dal Presidente del Consiglio e dal giornalista che l'ha intervistato a Porta a Porta. E eccoci sempre insieme, Roberta Giordano con voi ancora per circa un quarto d'ora fino alle 15, se avete voglia di parlare delle notizie della settimana, di dire in libertà le vostre opinioni. E poi in collegamento oggi eccezionalmente dal Festival dell'Economia di Trento, perché di solito sta in Australia, Fabrizio Galimberti, autorevolissimo giornalista di economia e editorialista del Sole 24 Ore. Tra i saggi che ha pubblicato, questo è il più nuovo, SOS Economia, la crisi spiegata ai comuni mortali, che ne abbiamo certamente bisogno. Faccio solo un breve collegamento a quanto si diceva prima col colonnello Giuliaci, visto che abbiamo parlato di meteo. Bene, non vi spaventate se troverete nei prossimi giorni nugoli e nugoli di bellissime farfalle, Vanessa, a parte che io impazzisco per le farfalle, ma sembra che sia proprio il caldo di questi giorni che sia probabilmente all'origine, insomma, di questa invasione di Vanessa, così si chiamano queste farfalle del tutto innocue, che in milioni di esemplari si stanno spostando dal Nord Africa all'Italia. Quindi se le vedete, insomma, giuitene, anche se non so se poi per i cambiamenti climatici sia una cosa positiva, però se siamo invasi dalle farfalle meglio che da altro, insomma. E dicevamo, Italo da Ascoli Piceno, quindi Italo. No, ecco, io volevo dire, senza entrare minimamente nel merito del fatto del gossip, che è molto lontano dal mio interesse, ma volevo evidenziare il fatto che comunque dietro una rivelazione di un fatto da parte di un giornale c'è stata una autonoma decisione del Presidente del Consiglio di andare in una fascia di massimo ascolto in una trasmissione televisiva, adducendo, a suo modo di dire, la verità assoluta, la verità vera, e portando una serie di ricostruzioni dell'accaduto che si sono, a seguito delle successive notizie pubblicate nei giorni durante la settimana, rivelate non vere, tant'è che nell'intervista fatta alla TV americana lui stesso ha detto che chiarirà tutto ulteriormente. Allora, quello che a me sorprende molto è il fatto che noi dobbiamo avere praticamente delle dichiarazioni non veritiere senza che il giornalista che l'ha intervistato ti riferisci a Vespa, tu? Di dire, e mi riferisco a Vespa, chiaramente. Così come ha fatto le trasmissioni ripetute sul caso Cogni con i plastici per approfondire tutti gli aspetti, io penso che una nuova trasmissione in cui porre le domande che si sono rivelate essere su situazioni non vere sia il minimo che un giornalista deve fare, a meno che non fa solo da cassa di risonanza. Ti ringrazio Italo, e non so che cosa dall'Australia ne abbia pensato e se ne ha voglia anche di pensare, di rifletterci, Fabrizio Galimberti, su chi sono arrivati da voi. Beh, direi che questa qui è una notizia ghiotta che ha valicato meridiani e paralleli. Certo, diciamo, non fa piacere in questo momento essere italiano, perché quando uno dice sono italiano gli altri fanno un sorrisetto e cominciano a parlare di Berlusconi e della Noemi, eccetera. Io sono molto d'accordo con quello che ha scritto Sergio Romano sul Corriere di un paio di giorni fa, insomma, che lui ha detto: se il Presidente del Consiglio nega di essersi mai comportato come un vecchio satiro, bisogna credergli. Però il problema è che uno non si deve neanche mettere nella posizione in cui desta certi sospetti. Insomma, un Presidente del Consiglio deve essere come la moglie di Cesare, e quindi il problema di Berlusconi è che lui si è messo in una posizione in cui poi è facile attaccarlo, vere o false che siano le accuse, in ogni caso fanno male al prestigio delle istituzioni. E adesso, visto che l'avevo prima accennato, quello del BIL, il benessere interno lordo, lo dico, era questa ricerca di Silvia Vecuso, che è psicologa, e a proposito anche di superare questa crisi, per esempio per quanto riguarda le aziende, una maggiore produttività, esorta a una maggiore responsabilità, rispetto, compassione, perdono, fiducia, altruismo. Dice: possono questi essere dei valori ineludibili per la crescita delle persone, secondo le grandi filosofie orientali, per trovare spazio e applicazioni anche nelle nostre aziende, dove spesso vigono valori opposti. E dice: solo in un contesto in cui le personalità di chi dirige e di chi lavora coesistono e si integrano eticamente, sono possibili sia la crescita degli individui che lo sviluppo, e quindi non da ultimo il profitto delle imprese, anche se mi sembra una cosa un po' lontana a venire, almeno per quanto riguarda l'Italia. Ed è proprio anche tutto questo in un libro, BIL, per l'appunto, benessere interno lordo, che mi sembrava un concetto a questo punto molto stimolante. E vorrei sentire, prima degli ascoltatori, ancora numero verde 800 24 00 24, dare spazio a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale mi piace sempre buttare lì, insomma, delle provocazioni, o comunque ritornare su dei termini, dei concetti di questa settimana, e sapere lei che chiave di lettura dà. Intanto ciao Valeria. Ciao, eccomi. Ecco, ti volevo chiedere, a proposito di crisi, è stato detto, e della ricerca dell'Istat, qualcuno ha commentato, insomma, sono sempre i capifamiglia quelli che subiscono più in difficoltà, eccetera eccetera, con un'accezione maschile che un po' a me ha dato un po' fastidio, visti i nostri tempi. E prima si citava anche il termine illibata, che sembrano molto lontani tra di loro, ma fanno parte di uno stesso tipo di cultura, mi sembra, o no? Che dici, sì, tu, Valeria? Sì, decisamente, sia dal punto di vista proprio del valore, del significato che si dà a questi termini, sia da un punto di vista, ecco, per come li vedo io, da linguista. E comincio con dire che si evocano i capifamiglia, quando poi oggi sappiamo bene che in tutti i vocabolari è citato al femminile, ci sono le capofamiglia, tanto per cominciare. Poi quando si evoca il capofamiglia maschio, in ogni caso si è rimasti un po' indietro, perché fino al 1975 veniva chiamato così, appunto, il marito, ma col nuovo diritto di famiglia questa qualifica è caduta, perché i coniugi hanno parità di posizione sia nei riguardi reciproci sia nei confronti dei figli. Questa è la definizione proprio da vocabolario. Quindi, per cominciare, è caduto il senso del termine, e tantomeno puoi usarlo solo al maschile. Poi in ogni caso, essendo la nostra una società di famiglie allargate, diverse come composizione, forse proprio nel senso della, non solo della parola, ma di quello che rappresentava, comincia a venir meno. Per illibata, ecco, sì, veramente, insomma, notti fa alla televisione hanno ritrasmesso per l'ennesima volta un bel film del 1971 di Luigi Zampa con Alberto Sordi e Claudia Cardinale, che era intitolato Bello Onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata. Sì. Allora, io speravo che fosse l'ultima volta, tra l'altro mi ero usato consapevolmente in modo scherzoso, ironico, ironico, tra l'altro si alludeva a una ex prostituta, quindi l'ironia era molto forte, che questo termine proprio oggi nel 2009 sia qualcuno possa ancora usarlo in senso serio e senza un velo di scherzo, di ironia, mi sembra un fatto scandaloso, grave, direi, sì, e quindi spero che nessuno lo faccia più, ecco. Grazie. Io tra l'altro lancerei una provocazione terribile, magari poi avrò gli strali, ma dico anche sui calendari, ecco, sulle sante, questa specificazione che c'è subito dopo vergine per gli uomini non c'è, è un po' brutto dover sapere se ha avuto rapporti sessuali o no, mi sembra talmente... No, che dici tu, Valeria? No, dico, ecco, qui questa volta non andiamo del tutto d'accordo, nel senso che ci si riferisce a epoche nelle quali la verginità aveva un valore e tra l'altro il martirio era dovuto al fatto di aver conservato la propria verginità. Allora, se ci riferiamo a epoche antichissime, sono d'accordo per il mantenimento della parola, ma solo unicamente in quel caso, come tanti fatti storici, linguistici rimangono nella nostra tradizione. Ecco, non oggi, dove ci rifiuteremmo di dare alla parola, perché qui il difetto è di dare ancora alla parola illibata un valore positivo, questo è il fatto. E non che poi deve valere solo per una parte dell'umanità, ecco, questo. Appunto, insomma, tra l'altro vale solo per una parte. Anche agli uomini capiterà la prima volta, insomma. No? Capiterà, ecco. Quindi chiudiamola lì e lasciamo questa parola che tra l'altro anche nei vocabolari viene trattata oramai un po' come un relitto del passato. Direi di sì, molto vintage. Grazie Valeria Della Valle. Ciao, arrivederci. Ciao Valeria. Giovanni da Firenze, numero verde 800 24 00 24. Giovanni, siamo proprio in chiusura, riesci proprio a sintetizzare un po' quello che vuoi esprimere? Certamente, intanto complimenti per la sua bellissima voce, signora. Grazie Giovanni, puoi chiamarmi Roberta che preferisco. Grazie, sei molto gentile. Allora, sì. Io dicevo questo, in pratica noi sappiamo che l'Italia è in recessione da più di 12 mesi. E nonostante ciò, appena è venuta da fuori la crisi mondiale, noi abbiamo detto che usciremo meglio, i nostri presidenti del Consiglio e il Ministro del Tesoro hanno detto che noi usciremo meglio della crisi di altri paesi dell'Unione Europea. Sì. Sappiamo che ora soltanto la Germania ha un PIL in decrescita superiore al nostro, noi siamo praticamente il numero due in Europa. A chi vogliono dar da bere con tutte queste cifre che noi siamo un paese che uscirà meglio della crisi? Cioè tu dici, Giovanni, troppo ottimistici queste previsioni? No, non troppo ottimistici, cioè noi eravamo in una fase negativa già due trimestri consecutivi prima che la crisi diventasse mondiale. No, è chiaro. Giovanni, perdonami e ti ringrazio del tuo intervento, così possiamo chiedere subito a Fabrizio Galimberti come la pensa. Grazie Giovanni. Fabrizio? Senz'altro è vero che la Germania e l'Italia sono in questo momento, per quanto riguarda il calo del PIL, i due fanalini di coda, anche perché sono dei paesi con una forte componente manifatturiera e la manifattura, l'industria è quella che ha subito di più con la scoppola di questo ciclo negativo, perché la gente quando rimanda la spesa, rimanda le spese discrezionali, rimanda la casa, il frigorifero e così via. E per quanto riguarda il fatto che ne usciremo meglio, è un auspicio sul quale naturalmente i governanti devono fare sfoggio di ottimismo, perché se anche loro dicessero che va tutto a carte 48 non è che sarebbe molto costruttivo, e quindi fa parte di una specie di obbligato ottimismo governativo. Io penso che non faremo né più né peggio degli altri, in fondo l'Italia è un tappo di sughero che galleggia sul ciclo internazionale, quindi quando questo volgerà verso il meglio, ci volgeremo verso il meglio anche noi, ma non credo che faremo particolarmente meglio degli altri. Questa del tappo di sughero non l'avevo ancora sentita. Fabrizio, beh, insomma, qualche piccola punizione, sanzione, qualcosa date lì al processo agli economisti lì, al Festival di Trento, capito? Lo sapremo il pomeriggio quando la giuria darà il suo verdetto. Bene, saremo ansiosi di saperlo. Intanto spero tu ti unisca con me a questo appello alle fumatrici e ai fumatori. Domani è il 31 maggio, giornata mondiale contro il tabacco. Cercate di avere di buoni propositi in questo senso. È soltanto veleno, catrame che si attacca ai denti, ai polmoni, all'esofago. È soltanto danno. Siamo d'accordo, Fabrizio, di provare a pensare per una volta a smettere di fumare? Sottoscrivo al 100%. Benissimo. Grazie infinite a Fabrizio Galimberti. Poi lo lasceremo dopo il Festival di Trento e l'Economia tornare tranquillamente nella sua Australia. Magari ci ricollegheremo più in là. Intanto Roberta Giordano vi augura uno splendido ponte, se lo farete, come lo farete, in qualsiasi modo lo farete. Vi aspetto sabato prossimo. Ricordatevi, domani almeno non accendete la sigaretta.